Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nella terza e ultima tappa del suo viaggio americano, parlando ai vescovi ospiti dell'incontro mondiale delle famiglie, Papa Francesco si è espresso contro gli abusi sessuali perpetrati dai preti pedofili. Sono parole fortissime. Provo vergogna, mi dispiace profondamente, Dio piange, ha detto il Papa raccontando ciò che ha provato durante l'incontro con 5 vittime, 3 donne e 2 uomini, avvenuto domenica presso il seminario di San Carlo Borromeo. Dagli abusati sessualmente ho ascoltato un lamento profondo, ha spiegato ai vescovi di Filadelfia. Questi crimini non possono essere mantenuti in segreto per tanto tempo. Papa Francesco ha promesso che tutti i responsabili degli abusi sessuali sui minori saranno puniti. Parole a lungo attese dalle associazioni. Questa è secondo me la vera novità. Un Papa dice i responsabili degli abusi in quanto preti saranno puniti. La prima volta si parla di punizione, poi si è sempre parlato di comprensione, da quando se ne comincia a parlare, perché il fatto che alcuni istituti gestiti da religiosi fossero una sorta di Disneyland, dei paesi dei balocchi per chi li gestisse, era voce ormai nota, ma da anni. Io ho studiato dai preti, quindi so esattamente di cosa si parla. Però non si poteva dire, chi lo diceva improvvisamente veniva additato come una sorta di nemico della religione, un anticlericale di maniera e via dicendo. Poi lentamente si sono associate le vittime degli abusi sessuali da parte di religiosi e è cominciato a emergere il problema. Negli Stati Uniti è emerso per primo, è emerso anche da un punto di vista preoccupante in quanto richiedono dei grossi risarcimenti, quindi mettono in crisi la Chiesa. Finalmente un Papa, al di là delle mezze parole, delle allusioni, delle reticenze, ha detto chiaramente: Dio queste cose non le vuole, mi sento in colpa io, in quanto rappresentante della Chiesa, di quello che la Chiesa ha fatto, probabilmente continuerà a fare in maniera più sommessa e più nascosta. Questa novità dovrebbe produrre qualcosa. Noi questa mattina vorremmo parlare di questo fatto, di quello che si è sempre detto, è sempre stato oggetto di illazione, di facezia, di racconto di reduci da parte che va fatto istituti dei preti, di dolorosissime storie, sanguinose storie, di vicende su cui sono state scritte lì. Ma mai un Papa l'aveva detto in maniera così esplicita che è il momento di fare qualcosa. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno. Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, autore di Amore, Sesso e Tempi di Papa Francesco, edizioni PM, mai un titolo fu più profetico, si trova negli Stati Uniti. Tu hai seguito il viaggio di Papa Francesco finora? Sì, assolutamente sì, anche ieri ero qui a Filadelfia proprio per quando c'è stato questo incontro del Papa con 5 vittime di abusi sessuali e il Papa ha usato le parole molto forti che voi avete ricordato. È stato un incontro, diciamo, riservato, non è stato fatto certo sotto le telecamere. Sai raccontarci qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo letto oggi sui giornali, come è avvenuto questo incontro? Sì, il Papa ha ricevuto queste 5 persone, erano 3 donne e 2 uomini, e ha usato parole molto, molto forti nei loro confronti, che sono state poi rese pubbliche, perché ha detto: io vi ringrazio perché ci avete aiutato a portare alla luce, vi ringrazio per il vostro coraggio per portare alla luce la verità su questi fatti e vi prometto che la Chiesa punirà i responsabili e non voglio che ci sia più il segreto su queste cose. Parole che poi lui ha ripetuto a tutti i vescovi riuniti poco dopo, perché neanche un'ora dopo ha incontrato tutti i vescovi del mondo che erano qui per l'incontro delle famiglie e ha detto addirittura, ecco, queste persone sono araldi della verità, queste persone che sono state vittime di abusi sessuali, Dio piange per loro e noi dobbiamo fare appunto... Secondo me, Ignazio, la frase che però dovrebbe dare più seguito, e vorrei che tu questa mi commentassi, quando parla di punizione, cosa intende il Papa per punizione? Intende dire che appunto non ci saranno più coperture e non ci saranno più, diciamo, tutti dovranno pagare. Ma come? Allora, la situazione è questa allo stato attuale. Papa Francesco ha istituito una commissione presieduta dal cardinale O'Malley, che è il vescovo di Boston, una delle città più colpite negli Stati Uniti da questo fenomeno, che sta procedendo su varie direzioni. Un primo punto è che c'è un carico, diciamo, di processi pendenti su preti e religiosi accusati di pedofilia che è molto ampio, perché in base alle norme che aveva voluto prima Giovanni Paolo II e poi Ratzinger, tutti questi processi sono rimandati a Roma, all'ex Sant'Uffizio. Allora però c'è ormai un carico molto ampio di queste cause. Quindi si fanno tutti a Roma anche le cause di, diciamo, di crimini avvenuti anche in altre parti. Ovvio, perché il problema era che prima si trattavano a livello locale e quindi i vescovi localmente tendevano a coprire. Allora si è detto non è più possibile, vengono trattate a Roma, così non ci possono essere più coperture. Però c'è un arretrato molto ampio. Il secondo problema è come evitare in futuro che queste cose si producano, e cioè è come lavorare sulla formazione dei preti e sulla selezione dei preti nei seminari, perché è vero che ci sono poche vocazioni, ma non è che questo allora, come dire, deve consentire il fatto che poi si prenda chiunque a non fare, è che si prende di tutto perché sono pochi religioso. Terzo punto, che è il punto cruciale però, che va ancora chiarito del tutto, è il problema se poi un vescovo che ha conoscenza di un crimine di pedofilia, che un suo sacerdote sotto la sua giurisdizione ha violentato un bambino, che cosa fa? Lo deve denunciare all'autorità giudiziaria civile oppure no? Oppure deve solamente avviare un processo canonico all'interno della Chiesa? Insomma, i panni sporchi si devono continuare a lavare dentro, oppure il vescovo... Ecco, ha il quest'ultima domanda, che è la più seria, la più importante, rimane retaggio dei vescovi che poi se la vedono come vogliono? È una domanda su cui ancora c'è un braccio di ferro nella Chiesa. Secondo me, quando il Papa dice non ci deve essere più segreto su questi crimini, vuol dire che vanno denunciati poi... Che il vescovo deve denunciarlo, deve chiamare i carabinieri come per qualunque altro crimine. In Italia questo non è vero, perché le norme che ha fatto la Chiesa italiana sull'argomento, per, diciamo, recepire le indicazioni del Vaticano, dicono che il vescovo ha un dovere morale di denunciare, ma dovere morale non è un dovere giuridico. Io, da padre e da cittadino, dico che la vera novità sarà quando la Chiesa definitivamente dirà che un vescovo che scopre che un suo sacerdote sotto la sua giurisdizione ha violentato un bambino è obbligato a denunciarlo all'autorità giudiziaria. È obbligato a denunciarlo. Grazie Ignazio Ingrao, ti saluto agli Stati Uniti. 800 24 00 24, la trasmissione comincia adesso, cominciate a chiamare se questo problema vi ha toccato, vi ha interessato, ne avete avuto notizia, perché dobbiamo fermarci un istante. Melog, cronache meridiane. Chiese scusa Papa Wojtyla, chiese scusa Papa Ratzinger, chiese scusa Papa Francesco. Cos'è cambiato in 15 anni? Bergoglio, io sono Eric Zattoni, figlio del prete pedofilo Don Pietro Tosi. Io e mia madre ti abbiamo scritto diverse lettere cercando di avere giustizia, cercando di far ridurre lo stato legale di questo prete, ma tu non l'hai fatto. Cosa devono fare le vittime per avere giustizia? Perché non ascolti le vittime? Perché non rendi giustizia alle vittime? Perché hai lasciato morire questo prete pedofilo senza ridurre lo stato legale? Perché? Papa Francesco, ti ho dato in mano una lettera in Vaticano. 800 24 00 24. Il tema è gli abusi sessuali da parte di religiosi. Il tema si espande dopo le frasi di Papa Francesco a Filadelfia, ma il punto, come ci ha riassunto Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, è proprio questo. Sì, belle parole, giusto, Dio piange, noi chiediamo scusa, ma i vescovi denunceranno i preti quando hanno notizia di abusi sessuali, o li prenderanno dentro il giudizio della Chiesa, e quindi significa che la cosa più o meno va in cavalleria? Questa domanda io la rivolgo a Francesco Zanardi, che è portavoce della rete L'Abuso, associazione vittime di preti pedofili, che mi sembra non costituita da molto tempo, o sbaglio? Ma più o meno dal 2010, ecco. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ve la siete fatta questa domanda dopo aver ascoltato il Papa? cambierà qualcosa, e l'unica cosa che può cambiare le cose è proprio questa, che il prete sappia che rischia la galera, rischia la pena. Esatto, infatti come posizioni mi trovo esattamente su quelle di Ignazio Ingrao, e purtroppo questa è una grossa lacuna. Abbiamo ad esempio in questo momento un caso in Calabria dove il prete è stato condannato dal Tribunale Vaticano a una sospensione di 4 anni e a giorni tornerà a fare il parroco. Sì, poi onestamente io non voglio entrare in una vicenda così personale e dolorosa, ma una vittima o un familiare di vittima, ma cosa gliene importa se il prete ha lo stato laicale o può continuare a fare il prete quando ormai ha già rinunciato a priori al suo mandato, al suo ufficio, abusando di ragazzini? Esattamente questo. Vuole che vada in galera, giustamente. Sì, manca tutto il passaggio della giustizia, dello Stato dove viene commesso il crimine. Infatti noi siamo dell'idea che l'unica via risolutiva è questa, cioè è giusto che il Vaticano faccia i suoi processi canonici, però teniamo ben conto che qual è l'esito massimo, la condanna massima che si può ottenere da un processo canonico? Che lo spreadano. La comunica, quindi si ottiene il risultato di avere un pedofilo. Cioè, sai che pena per uno che già, diciamo, pur da prete abusa di ragazzini? Sì, ho capito, però diciamo non è risolutivo, perché ci troviamo un pedofilo che prima di mestiere faceva il prete, oggi di mestiere non fa più il prete, ma rimane pedofilo, rimane, oltre a rimanere impunito, rimane anche, diciamo, non sotto le cure mediche che magari una persona del genere dovrebbe avere, perché in realtà la pedofilia non è, come spesso viene fatta passare, una malattia, ma è una forte devianza della personalità, quindi difficilmente si guarisce dalla pedofilia. Senta, mi dà qualche numero esattamente e mi dà anche qualche tipologia. Noi parliamo di pedofilia, che io intendo per pedofilia una persona con una sindrome compulsiva, con un problema psichiatrico molto grosso, che abusa di bambini. Ma questi abusi non vanno anche oltre l'età puberale, che diciamo l'area di interesse del pedofilo? Non abusano anche ragazzi adolescenti, preadolescenti? Sì, questo sì, poi si espande. E perché continuare a chiamarli pedofili quelli che abusano ragazzi adolescenti, ad esempio? Ma in genere in questi casi l'abuso inizia da bambini, poi ci sono in molti casi dove il pedofilo va avanti ad abusare di queste persone fino ai 23, 24, anche 25 anni, perché rivede anche nella persona adulta quel bambino di cui abusava una volta. Ecco, ci sono poi, io non sono uno psicologo, ci sono però, ho visto moltissime sfaccettature di questa cosa. Allo stesso tempo il cordone ombelicale che rimane tra la vittima e il suo abusatore, è un cordone che ci metterà moltissimo a spezzarsi e che spesso e volentieri... Quanti casi trattate voi, più o meno, Zanardi? Ma noi abbiamo in associazione, come iscritti, abbiamo circa 460-470 vittime italiane. Adesso abbiamo 4-5 casi aperti in Italia. Da quanto la gente ha coraggio di cominciare a denunciare e associarsi e discutere di un problema comune? La denuncia è sempre molto difficile, ecco, poche sono le vittime che decidono di denunciare, soprattutto quando si vede quello che spesso accade, al di là delle parole del Papa, nelle parrocchie dove si denuncia, ecco, la vittima viene isolata, additata, ha spesso delle problematiche, diciamo, ulteriori che non si sente ad affrontare. In altri casi ha magari la problematica di aver messo su una famiglia nel frattempo, e quindi il problema è di doverlo dire ai propri cari. Quindi... È l'annoso e terribile problema di chi subisce una violenza sessuale. Qualcuno dirà sempre o che se l'è cercata o che era complice del suo carnefice. Aspetti un attimo che ho delle telefonate, vorrei commentarle assieme a lei. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Leghi il cane e mi esponga la sua domanda. Sì, hai già fatto. E più che altro una segnalazione. Noi abbiamo in provincia di Bolzano un caso famoso, nel senso che per anni ha occupato anche le cronache locali, di un sacerdote che ha abusato per diversi anni di una bambina che poi è diventata ragazzina. È stato condannato? È stato condannato in via definitiva con una sentenza di Cassazione che non è stata applicata perché sono scaduti i termini, quindi è andata in prescrizione, una vergogna. E quindi questo prete dov'è adesso? Questo prete è stato messo dal vescovo a fare il sacerdote a Vipiteno, che è una cittadina ai confini. Come si chiama il prete, visto che è un caso? Carli, si chiama Don Carli. Don Carli, condannato, diciamo. Condannato. Per aver abuso sessuale, continua a fare il prete. Esatto. Nella parrocchia di Vipiteno. chiedevi più te, no? Fermo, e... resti un attimo, resti un... lo sa, lo vede, fa messa, si occupa... Fa il catechismo ai bambini. Fa il catechismo, le comunioni, eccetera, insomma, sì, è una cosa che secondo me andrebbe... Francesco Zanardi, portavoce della rete L'Abuso, sapeva di questo caso? Sì, il caso di Don Giorgio Carlilo, sì, un caso, diciamo, ormai abbastanza datato, non troppo, ma... ormai archiviato, sì, purtroppo. Sì, però il Papa come fa a dire pagheranno quando c'è un prete che ancora fa il catechismo ai bambini, condannato in via definitiva per abuso su bambini? Ripeto, ci sono tanti casi, c'è un prete appunto adesso in Calabria che a giorni, probabilmente mi pare domenica prossima, sarà di nuovo diciamo rimesso sul sistema, ecco, prenderà di nuovo una parrocchia in mano. Quindi, ed è stato condannato dal Tribunale Vaticano. Purtroppo questa è la routine, vediamo i casi qua nel Savonese solo di Don Riccardo Seppia, caso famoso Don Seppia, certo, e di Don Luciano Massaferro, entrambi liguri, sono entrambi stati condannati in terzo grado, ma sono ancora preti, al momento non esercitano, d'accordo, però è una battuta che io faccio sempre, che queste persone non sono state denunciate perché dicevano male la messa, ma perché stupravano i bambini, quindi il fatto che possano dire messa dal nostro canto, dal nostro punto di vista, è a discrezione della Chiesa. Sì, ecco. È un problema, diciamo, dell'organizzazione ecclesiale, che per loro è una punizione impedirgli di dire messa pubblicamente, ma io nel mio ruolo di totale peccatore indegno di parlare di cose di Chiesa, dico, una persona che stupa un bambino, essendo prete, quanto può avere a cuore il rapporto col Padre Eterno e la considerazione del suo ufficio sacerdotale? Mi sembra molto singolare. Claudia, buongiorno. Claudia, c'è? Claudia è caduta, allora diamo la linea velocemente, così guadagniamo un po' di tempo. 800 24 00 24, il dibattito è aperto, il Papa dice li puniremo, sì, però i preti condannati continuano a fare i preti. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Nel 1981 io avevo 11 anni e abitavo a Spotorno, frequentavo la parrocchia come chierichetto e un giorno arriva un nuovo sacerdote che si chiama Donnello Giraudo. Questo sacerdote, purtroppo, molto presto ci rendiamo conto che è un pedofilo. Donnello Giraudo prende voti nel 1980, lo stesso anno abusa di un bambino nella scuola di Valleggia. Il vescovo, alla luce di questa denuncia, lo sposta a Spotorno, dove vengo abusato anche io e altre decine di ragazzi come me. Sono una vittima, diciamo, abbastanza fortunata. Perché è terribile, allo stesso tempo fa riflettere la vigoria di questi preti pedofili. Certi gli addebitano centinaia di vittime, ma hanno una sorta di furia incontrollata, forse proprio perché si sentono come la volpe dentro il pollaio e sentono l'impunità e sentono che in fondo nessuno può fare nulla, nessuno farà nulla e comunque sanno e potranno farlo finché vorranno. 800 24 00 24, oggi parliamo di abuso sessuale da parte dei religiosi. Nicola, buongiorno. Buongiorno, signore collega. Spenga la radio, spenga la radio. Spengo subito. Complimenti per le sue trasmissioni, ve lo ascolto sempre. Io ho 66 anni, sono di Torino, e nonostante questo sono passati 60 anni, ho sempre avuto perché subito non me ne ero reso conto quando è successo, avevo 6 anni e mezzo, facevo la seconda elementare, ma era corrispondente alla prima perché ero nato pochi mesi prima di gennaio, di dicembre. Praticamente avevo l'età della prima. Che scuola era? Vivevo in un collegio che era anche un collegio rinomato, eccetera, a pagamento. Però sta di fatto che ci veniva a confessare questo giovane prete, che si chiudeva in una stanza le suore, c'erano le suore, bravissime, non possono dire nulla per le suore. Però questo prete si chiudeva con noi in una stanza, a volte ci teneva anche 20 minuti, mezz'ora. E a me è successo proprio che a 6 anni io non sapevo né cos'era il bene né il male, a 6 anni cosa si può sapere un bambino? Hai fatto mai male? Perché ha cominciato a pacioccare tutto di più, chiedendomi se avevo fatto con quello qualcosa, mettendomi proprio le mani addosso. mi ha fatto anche male, boh, non le dico altro, mi ha fatto molto male. E un bambino di 6 anni non sa cosa vuol dire il bene e il male. Lei non l'ha raccontato mai a nessuno? Mai a nessuno, perché anche vedevo i miei ogni 15 giorni. Questa cosa mi turbò, ma poi non lo so per cosa è stata scacciata, ma io ogni volta che vedevo, poi anche da adulto, io quando vedo dei sacerdoti, preti, eccetera, quelli qua scalzi. Ma con gli altri bambini vi parlavate e c'era questa cosa nell'area che quando ci si andava a confessare? No, c'era abbastanza, anche lì io sono stato molto, mi sono chiuso, non ho più giocato con nessuno, perché era un collegio anche bello, che Torino privato. Però non io mi sono molto chiuso, quello sì, mi ricordo che non giocavo più a pallone, non facevo. E oggi è la prima volta che lo racconta qualcuno? Di sicuro, no, guardi, non ho detto mai a nessuno. Va bene, devo dire una cosa, che è arrivato un mio amico in questo collegio, messo da un amico di mio padre, e mi sono, poi io facevo già la quinta, quindi ero alla fine, mi sono messo come suo protettore. E gli dici non t'andare mai a confessare nella stanza da solo? Stanza, suore, perché a quel punto anche le suore stesse che mettono i bambini di 6 anni in mano a uno per mezz'ora, no. Cioè la suora non viene il sospetto che un bambino solo con un prete chiuso in una stanza per mezz'ora, la confessione? Ma io me ne sono passato, sono andato a 40 anni. Cioè mi domando, ma che peccati ci avrà mai un bambino di 6 anni che sta a mezz'ora? Ma è quello che io a 40 anni mi sono poi reso conto, mi è venuto un prete che io avevo compreso. Lei se lo ricorda come si chiamava quel prete? No, purtroppo no. Sono andato a cercare il lavoro, a cercare le suore, e purtroppo è diventato un istituto privato, bello sempre, ma non più in mano le suore, non più in mano ai cani vari. Grazie Nicola, grazie Nicola, grazie avercelo detto per la prima volta. Angela Camuso, buongiorno. Buongiorno. Giornalista, scrittrice, autrice del libro La Preda, confessione di una vittima, editore Castelvecchi, che è una storia di cui abbiamo già parlato a questi microfoni, ce la ricordi brevemente? Sì, è la storia di Don Ruggero Conti, il prete condannato ormai in via definitiva per aver abusato di 7 ragazzini adolescenti. È stato condannato a 15 anni di carcere, il primo processo in Italia per cui è stato indagato un vescovo, anche se poi il vescovo è stato assolto, e peraltro il vescovo, a tutt'oggi vescovo della diocesi, Monsignor Gino Reale, non è mai stato sottoposto ad un procedimento disciplinare per questo. Per aver coperto infatti qui il punto è proprio capire, al di là delle bellissime parole del Papa e al di là sicuramente del fatto che si stanno facendo dei piccoli passi avanti, però ci sono dei punti cruciali che se non si sciolgono non cambierà mai. Senti, ma dov'è la strozzatura dell'imbuto? È il vescovo che poi alla fine non fa niente. No, la strozzatura dell'imbuto è duplice. Allora, innanzitutto c'è un problema legislativo che riguarda anche lo Stato italiano, nel nostro specifico, perché in alcuni stati, come nei paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i vescovi sono obbligati, in quanto considerati pubblici ufficiali, a denunciare per legge i fatti di pedofilia. In Italia non sono obbligati. Civili. E questo no, in Italia no, quindi non c'è solo un problema che riguarda la Chiesa, ma c'è un problema che riguarda le leggi italiane nei confronti della Chiesa, e chiaramente è un problema che riguarda ovviamente i patti lateranensi e tutta una serie certo. di cose qua. Però questo è un problema importante, perché se il medico è un pubblico ufficiale, perché il vescovo non è un pubblico ufficiale? Ecco, domanda prima. Secondo, il diritto canonico che cosa prevede? Soprattutto ci sono state delle modifiche, Ratzinger ha introdotto diverse modifiche, diciamo è stato più severo nei confronti del fenomeno della pedofilia, e ha introdotto questa regola nel diritto canonico che i vescovi hanno l'obbligo di avviare un'indagine nel momento in cui ricevono delle denunce. Se chi la fa, scusa, la fanno i chierichetti l'indagine? Chi ci manda? No, l'indagine dovrebbe fare la diocesi, okay? Ma chi? Nella figura di chi? Sono preti investigatori? Cosa c'è? Chi lo fa? No, si istituisce una sorta di tribunale. Padre Brown, chi ci mandano a investigare? Ma il tribunale? Altri preti. Ma con quali strumenti? Il punto è questo. Allora, per esempio, nel caso delle vittime di Don Ruggero Conti, perché voglio dire, il vescovo all'epoca Reali fu avvisato più volte, addirittura gli arrivò persino una lettera di un ragazzo che raccontava per iscritto tutto quello che stava subendo. Il vescovo che fece? Avviò questa indagine, ok? E che cosa fece per portarla avanti? Cominciò a convocare, a testimoniare questi ragazzini. Stiamo parlando di ragazzini che avevano 14-15 anni, che non avevano mai raccontato niente in famiglia. Chiaramente nessuno di questi ragazzini ebbe il coraggio di andare di fronte a un tribunale di preti a raccontare che il potente Don Ruggero Conti, perché oltretutto questo prete che poi è stato condannato era l'economo della diocesi, era stato nominato da Alemanno come portavoce per la politica alla famiglia, era un personaggio agganciato, un prete stimatissimo a livello politico, eccetera, eccetera. Nessuno di questi ragazzini si è avuto il coraggio di andare di fronte a questo tribunale, e quindi il vescovo ha ben pensato che allora l'indagine non poteva essere portata avanti, ha chiuso tutto e ha riconfermato il sacerdote per altri 10 anni in quella parrocchia. Ora, quindi, questo è il problema. Oltretutto, il diritto canonico non prevede non solo l'obbligo dei vescovi di denunciare alle autorità ecclesiastiche, cioè alle autorità, scusate, civili, no? Perché appunto, se non lo fa lo Stato, lo potrebbe fare la Chiesa, potrebbe dire: ok, tu vescovo, quando vieni a sapere che un prete è sospettato di pedofilia, devi per forza andare dai carabinieri e denunciare questa cosa e permettere allo Stato di fare le indagini. Questo obbligo non c'è, ok? Questo obbligo non c'è in tutto il mondo, no? Quindi è quest'altro scusami una cosa, ma voglio anche te che mi dai il tuo parere, visto che è un tema che tu hai trattato professionalmente da anni. Quando il Papa dice i responsabili pagheranno, pagheranno come? Con gli strumenti attuali non pagano. Alcuni pagano, ma sono solamente una. Sì, ma dovrebbe dire il Papa, cari vescovi, da oggi c'è l'obbligo che voi denunciate, però l'obbligo deve essere in qualche maniera ratificato, non basta lo dica il Papa. La legge dovrebbe dire che il vescovo è un pubblico ufficiale, deve denunciare, che non faranno mai. Quale politico andrà a compromettersi un così vasto consenso? Questo è come pagare l'IMU o pagare l'ICI per gli istituti religiosi. Nessuno va a mettersi in pericolo per queste cose qua, figurati. Perde voti, perde consenso, perde amici preti. Io ho un po' di numeri, se vi interessa. Non sono super aggiornati, ma sono interessanti. Dammeli perché allora noi abbiamo considerato il numero complessivo di sacerdoti religiosi e diocesani nel mondo è di circa 400.000. Ora, 3.000 di questi, nel periodo che va dal 2001 al 2010, sono stati segnalati all'ufficio del promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è poi insomma la commissione che ha istituito Ratzinger, perché accusati di reati sessuali, quindi 3.000 su 400.000. Ok, relativamente però a fatti, parliamo di fatti dal 50 al 60, quindi nel decennio che va dal 1950 al 1960. Poi parliamo di tutto il mondo. Ora, il 60% di questi casi riguarda proprio l'attrazione verso adolescenti, e questo è importante perché è vero che purtroppo ci sono i preti attratti dai bambini, però il momento più pericoloso per un frequentatore di parrocchia è proprio il periodo che va dai 13 ai 16 anni. Io, avendo studiato ai Salesiani, so bene che gli anni del ginnasio e del liceo erano quelli in cui ti saltavano più addosso. Statisticamente gli abusi avvengono molto più spesso nei confronti. Ma perché continua a chiamarli pedofili? Mi domando questo solo per correttezza. Un prete che abusa e tenta di sedurre un quindicenne, che magari va all'oratorio, perché continua a chiamarlo pedofilo? Si dovrebbe chiamare efebofilo. Efebofilo, cioè attrazione verso l'efebo, che è, diciamo, il... Sì, sono sempre esseri umani, ancora non dotati di tutti gli strumenti di salvaguardia della loro identità, e quindi sono molto più fragili, naturalmente. Esatto. Però ci spostiamo un po' avanti, perché sempre patologizzare tutto, bisogna capire esattamente. Ci fermiamo un istante perché devo dare la linea. Ferma un attimo lì, poi sentiremo anche con Francesco Zanardi un suo punto di vista rispetto ai dati che hai dato te, che mi sembra che sia ridicolo. Se i numeri sono questi è un non problema, ma possono essere solo questi i numeri. A tra poco. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Melog, cronache meridiane. Parliamo di abusi sessuali da parte di religiosi. Luciana, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, volevo raccontare la mia storia. Dunque, io questa riguardante questa cosa qua. Dunque, io anni fa avevo il bambino piccolo, le parlo di parecchi anni fa. Avevo il bambino piccolo e avevamo bisogno di aree di campagna, quindi ci hanno indicato Casanova di Rovegno, diciamo vicino alla parrocchia, il prete affittava queste stanze. Ci ha affittato la stanza e io sono andata con il bambino piccolino. Dopo un giorno scendo, avevamo dato un assegno al prete come caparra per questa stanza. Villaggetto vacanze gestito dal prete. Sì, esattamente. Scendiamo, la mattina dopo io scendo la scala, lo scalone di questo edificio, e per andare a stendere giù i panni. Mia suocera era rimasta su in casa e mi dice: fai presto. Dico sì, faccio subito, vado. Nello scalone si affaccia il prete e mi dice: oh cara, venga che ho pronto il caffè sul fuoco e glielo sto proprio preparando. Dico: ma no padre, io devo stendere i panni. Quanti anni aveva questo prete? E guardi, il prete aveva 75 anni. 75, dico. E quindi cosa fa? Legnoso, un uomo alto, legnoso, diciamo. Ma vada al punto, l'episodio, cosa fate? È andato, ecco, su dal bambino? Niente, cosa fa? Mi ha fatto entrare, io sono entrata dentro a prendere il caffè, mentre stava, diciamo, girata sulla macchinetta, io ero sulla poltrona, mi si è letteralmente buttata addosso. Lei era prona sulla macchinetta? Lui era sulla macchinetta del caffè, io mi aveva fatto sedere in poltrona vicino alla cucina. E me lo trovo addosso, guardi, una cosa incredibile. Sì, Luciana, è una brutta esperienza, ma che c'entra con la pedofilia? Io pensavo che avesse attentato. Non c'entra con la pedofilia, però io ero giù, cioè voglio dire. Beh, era un prete mandrillo che le è saltato addosso. È brutto, niente, però io è brutto, dire sì, che, ma c'era una cosa, Nicoletti, da dire, che nel paese lo sapevano tutti, tanto è vero che quando noi siamo mia suocera. Sì, ma quella è un'altra storia, scusi, non confondiamo, possiamo parlare cose. Quello è il prete chiavatore, esiste, però va con donne adulte, con le parrocchiane, se vogliono ci vanno, se no no. Fa male dal punto di vista della figura del prete e della coscienza, ma le parrocchiane possono prenderlo a calci, dirgli di no, riempirlo di catrame e piume, hanno possibilità di difendersi. Noi stiamo parlando di preti che abusano di bambini, non ci confonda le idee. Francesco Zanardi, torniamo a lei, portavoce Rete L'Abuso. Rispetto a quello detto Angela Camuso, vi siete fatti un'idea sui numeri e sulle tipologie, insisto, sulle tipologie, diciamo, di abuso e di categorie di esseri umani abusati? Non la signora che gli è saltato addosso il prete di 70 anni, che è un altro problema, ma non grave come questo, secondo me. Ma i numeri dati prima, intanto va detto che sono relativi fino al 1970, quindi un'epoca ancora dove non si denunciava neanche l'autorità ecclesiastica, un'epoca dove quando la famiglia si rendeva conto magari che c'era qualcosa in parrocchia portava via il figlio o la figlia che fosse, ecco, e quindi non avvenivano le denunce, quindi quelle 3.000 denunce sono effettivamente molto poche. Se andiamo a vedere, ce ne sono state altrettante ai giorni nostri solo negli Stati Uniti. Oggi poi c'è, cioè, il mondo delle reti, dovrebbe essere più facile comunque, essendo salvaguardati, comunque segnalare in qualche maniera il problema. Allora mi rendo conto, in una piccola comunità, certo, parrocchiale, ci fosse stato anche il prete maiale che si abusava dei bambini, ma chi mai avrebbe avuto il coraggio? Sarebbe stato messo all'indice dall'intera comunità, pronte 100.000 zelatrici a dire che è una bravissima persona, o mi sbaglio? Certo, certo, certamente. Riguardo i numeri, io posso dire che io sono una vittima, sono stato abusato da Donnello Giraudo qua nel Savonese, e essendomi occupato personalmente, perché l'associazione poi, per una storia molto più lunga, nasce anche da lì, essendomi occupato personalmente del mio caso, sono riuscito a censire circa 80 vittime di questo sacerdote in 30 anni, ecco. Quindi le cifre secondo me vanno fatte qui, sulle vittime, sul numero di vittime. Ma è un numero impressionante, anche un uomo attivo sessualmente. Difficile che abbia 80 donne nel giro della sua vita, è un numero alto. Come mai avevano questa sorta di compulsività, secondo lei? Allora, questo l'ho fatto notare perché bisogna usare questo dato quando si fanno le percentuali, perché un pedofilo, diciamo, laico non riesce a abusare 80 vittime. Nel caso di Giraudo, il mio abusatore, fu spostato ben di 3 parrocchie. Quando poi la situazione alla terza parrocchia si rese insostenibile, ebbero l'idea di farvi aprire una comunità per minorenni in difficoltà, così certo. Abusi avvenivano all'interno della comunità. La volpe nel pollaio, come dicevo io. Esatto, e a fare questo anche qui andiamo a vedere un'altra regola di Papa Francesco, punire i vescovi. Benissimo, questa comunità, per la verità ben due, ha due pedofili conclamati nello stesso periodo, uno Don Elio Giraudo e l'altro Don Giorgio Barbacini, la fece aprire Monsignor Dante Lanfranconi, che ha terminato impune la sua carriera nella diocesi. Lo sai cosa che mi meraviglia? Noi diciamo tranquillamente nomi e cognomi, sia dei preti sia dei vescovi che l'hanno coperti. Il Papa va in America e dice li puniremo, ma il Papa questa lista ce l'avrà molto prima di me e di lei, secondo me. Li puniremo come? Questa è la domanda. Nicola, fermo un attimo. Nicola, buongiorno. Sono qui, buongiorno, vi disturbo per una denuncia, se questo forte è gridata. Eravamo una sera 15 persone, sarò breve, abbiamo assistito a una scena di un prete che inseguiva, invitandolo a salire in macchina, un giovincello, perché notoriamente il prete è pedofilo, è stato anche forse... Quanti anni aveva il giovincello? Il giovincello avrà avuto 15 anni, 14 anni, giovane. Il prete gli correva dietro. Prego, noi ci siamo meravigliati, eravamo un fotogruppo di un dopocena, ci siamo meravigliati, conoscevamo l'individuo, cioè il prete, e abbiamo ritenuto opportuno avvisare il vescovo, due persone di noi. Sì, sono, ma c'erano altri episodi? Questo potrebbe essere un episodio? Sì, no. Altri episodi, non solo il mormorare del paese laddove questo purtroppo l'hanno fatto, mi sa, anche arciprete. Sì, il mormorare non è stato questo, anche il mormorare può essere anche qualcosa che non ha fondamento. Ci sono episodi concreti, oggettivi, verificati, certificati per fare una denuncia, perché non lo denunciate? No, già è stato denunciato, questo è che volevo dire, per abusi di qualche bambino, perché faceva anche l'insegnante alle scuole medie. Il vescovo lo sa? Il vescovo adesso purtroppo è morto ed è in odore di santità, certo, tra le altre cose, che io griderei che ha omesso questo provvedimento, cioè informato il vescovo, ha detto un po', insomma, buttato se così un po', si può dire, il camperlaia, e non è successo nulla. Esercita ancora il suo sacramento, la sua funzione. Vede Nicola, lei sta purtroppo aggiungendo alla nostra missione quello che è la realtà che abbiamo toccato con mano proprio i primi 5 minuti. Speriamo che dietro le parole del Papa i responsabili pagheranno, ci sia un provvedimento legislativo reale che obblighi il vescovo a denunciare in quanto pubblico ufficiale i responsabili di violenza sessuale su bambini. Grazie Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti. Il resto sono chiacchiere.